Convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Sostituirà a me, si impegni formalmente a fare ogni anno gli investimenti necessari per riportare il Milan ad essere protagonista in Italia, in Europa e nel mondo. E quindi non è soltanto il fatto che riguarda l'acquisto, ma è il fatto che ci sia la sicurezza che questi signori vogliono fare del Milan un grande protagonista del calcio mondiale. Io penso che stiano ancora parlando di quello che succede in Oriente, ma stanno ancora parlando e di novità non ne ho, siamo rimasti ai vecchi discorsi del 20% di queste cose. Se ci saranno delle evoluzioni penso che saranno in futuro. Vediamo cosa succede. È certo che se queste negoziazioni non dovessero andare nella direzione che noi auspichiamo vadano, bisogna ripartire da capo col Milan, e penso che quel progetto che io ho appalesato qualche volta dovrà essere un progetto da mettere in pratica in maniera seria, cioè un Milan che ricominci per un nuovo ciclo partendo da giocatori italiani e giovani. Questa è la speranza sempre di tutti, che anche a Torino sarebbe cercato comunque sia di acquistare giocatori importanti, e adesso questi qui, se dovessero arrivare al 20% o di più, certamente arrivano per dare una mano alla società, e quindi dovrebbe migliorare anche quello che possa essere la potenzialità della società nella ricerca dei giocatori. Milano, provincia di Pechino. Pardo, come sei messo col cinese? Malissimo. Io anche. Bisogna cominciamo ad impararlo. Magari andiamo a lezione con Belinazzo. Ciao Marco Belinazzo. Poi il cinese sa. Sì. Ho studiato il mandarino. Hai studiato il mandarino? Mandarino. Bene. Allora, non in mandarino ma in italiano, dimmi cosa sta succedendo a Milano. In un certo senso l'Inter potrebbe battere anche il Milan sull'affare cinese, sulla pista cinese, sulla via della seta. Sì. Nel senso che quello che da mesi si sta trattando su una sponda del Naviglio in casa rossonera, cioè la cessione della maggioranza, sta per diventare invece realtà dall'altra parte, in tempi forse più brevi di quelli rossoneri, ed è la grande novità di ieri, che è una novità fino a un certo punto, perché Suning, come abbiamo spesso raccontato, insomma, è partita per avere la maggioranza, per acquisire l'Inter. Sì. Toir si è però sempre opposto a questa possibilità. Beh, Toir mi sembra si stia un po' defilando, Marco. Sì, però appunto non ha ceduto, non cederà tutto il suo pacchetto azionario. La svolta è venuta perché Massimo Moratti ha deciso di uscire dall'Inter, ha deciso di esercitare quella clausola put che aveva per novembre, certo. E questo ha cambiato i piani anche dello stesso Toir, per cui evidentemente a questo punto anche Toir, di fronte comunque a un'offerta che per lo stesso Tikun indonesiano è vantaggiosa economicamente, comporterà una piccola plusvalenza, insomma, è diventata conveniente, e da lì questa accelerazione dopo la visita da Piano di qualche settimana fa, certo. E la visita invece a Nanchino dei dirigenti per azzurri dovrebbe portare, insomma, a breve alla firma di un accordo vincolante, ecco, per le parti, con un cambio radicale di quello che è l'assetto societario in casa Inter, due volte, insomma, in pochi anni. Così. Certo. Prima di parlare del Milan, Pierluigi Pardo, che effetto ti fa? Segno dei tempi, segno dei tempi, però Milano in mano a imprenditori di alto livello cinesi fa un certo effetto. Sì, sicuramente, però ripeto, fa effetto perché Milano e le due società milanesi hanno da sempre vissuto in simbiosi stretta con l'imprenditoria locale, con società simbolo. Sì, sì. Dell'industria italiana, quindi questo fa sicuramente effetto. In realtà, se guardiamo quello che sta succedendo in tutto il mondo, non è una cosa così non è una cosa così fuori dai tempi. Il calcio inglese, che è il più ricco al mondo, ha ha praticamente metà della Premier League nelle mani straniere, quindi certo, non è per forza un segno di debolezza. Certo, un po' effetto fa dal punto di vista del romanticismo, sicuramente qualcosa si potrebbe perdere. Giochiamo direttamente il derby a Pechino, facciamo prima, insomma. Facciamo prima. Allora, non so se si può giocare a Pechino, perché non credo. Sicuramente un amichevole lo faranno. Tra l'altro credo che l'ICC, che è questo torneo estivo con tutti i migliori club al mondo, che si gioca anche in Cina, credo, se non ho visto male, che il derby tra Inter e Milan si giocherà in America, però, quindi rifate il calendario subito. Allora ragazzi, fermiamoci un attimo per il traffico. C'è Dario che scrive, poi ne parliamo ovviamente anche di nazionale: esiste un italiano cui piace il 10 a Thiago Motta? Questa è un'altra domanda, ma subito dopo il traffico torniamo a parlare di affari cinesi. Tutti convocati. Smao Research to Business ti aspetta a Bologna Fiere il 9-10 giugno. www.smao.it vi presenta Tutti convocati. Questo sarà una cosa che durerà un mesetto di trattative, ci sarà, ma perché è un po' che trattano, quindi può darsi anche che a un certo punto diranno qualche cosa. Effettivamente, che effetto fa l'idea di un Inter solamente cinese e soprattutto distaccata dalla sua famiglia? Mi metto a piangere. No, effettivamente non ci sono ancora arrivato a pensarci nel caso debba succedere una cosa di questo genere, poi vedremo come reagisco. Lasciamo stare le lacrime, Massimo Moratti, direi, lasciamo stare le lacrime, anche se io credo ci sia più di un interista che insomma il cui sogno fosse quello di Moratti che tornava al timone della barca nerazzurra. Questo non capiterà né ora né mai più, vero Marco Bellinazzo? Beh, tutto sta andando in questa direzione effettivamente, poi finché sai ci sono le firme, dobbiamo sempre usare il condizionale. Però Moratti di nuovo presidente dell'Inter, no, plenipotenziario dell'Inter, questa se ne è parlato tanto e più se ne è parlato tantissimo. Una sorta di fiume carsico, diciamo, questa voce, ma realtà non è mai stato un elemento concreto, devo dire, quelle che sono le mie informazioni. Io voglio fare, ragazzi, Pierluigi Pardo e Marco Bellinazzo, io voglio fare la stessa domanda, cioè qual è l'effetto che fa a Luigi Garlando, che è appena più illustre del calcio sulla Gazzetta dello Sport. Ciao Gigi. Ciao, buongiorno a tutti. Ciao ragazzi. Ciao. Qual è l'effetto che fa? Beh, l'effetto è straniante, cioè a me colpisce soprattutto così lo stato d'animo dei tifosi sia dell'Inter e di Milan, di così li vedo proprio attoniti che si guardano in giro e non capiscono cosa sta succedendo, cioè da settimane i milanisti si chiedono che faccia e che nome abbia il nuovo padrone del Milan, e l'Inter, dopo avere quell'interista, dopo aver ascoltato promesse ed essersi quasi abituati al sorriso di Tohir, ora sentono che devono cambiare padrone. E a giugno, quando le squadre insomma si stanno facendo, sono già quasi fatte, di fatto né Inter né Milan hanno una proprietà e non hanno neanche un allenatore certo. Ecco, sì. Questa situazione di sospensione in una piazza come quella di Milano, storica, a qualcosa dell'assurdo e dell'imbarazzante, questa è la sensazione. Però mentre all'Inter le cose sembrano un po' più chiare, mi rivolgo a Bellinazzo e a Pardo, mentre all'Inter le cose sembrano un po' più chiare, al Milan mi sembra sia tutto un po' nebuloso, no Marco? Allora, sull'Inter lasciami solo dire velocemente che finalmente Tohir nelle ultime settimane si è convertito, diciamo, alla piena trasparenza e ha parlato chiaro ai tifosi su quello che doveva essere il mercato dell'Inter, il job che sapeva finanziare, le cessioni, la necessità di fare 30, 40, forse 50 milioni di plusvalenze, cosa che insomma, con Mancini sospeso, come ricordava Garlando. Esattamente, esattamente. Cosa che è stata detta è che diciamo non cambierebbe un qualsiasi tempo verbale, insomma, nel caso comunque di intervento di una nuova proprietà. Potrebbe cambiare però qualcosa per il futuro, perché il Suning potrebbe ricontrattare con la UEFA un nuovo piano di sviluppo e da questo punto di vista una proprietà come il Suning, una proprietà straniera come il Suning, che fattura 15 miliardi all'anno, non c'è mai stata in Italia. Quindi parliamo di una cosa che finora non abbiamo visto. Ne abbiamo visto investimenti stranieri, diciamo attraverso private equity, attraverso delle formule o dei soggetti che non avevano così grande forza, forse soltanto, non è paragonabile allo stesso tempo, ma forse soltanto saputo a Bologna. Sì. Detto questo, dall'altra parte di Milano c'è una situazione, io direi, molto nitida, cioè nel senso che... Fronte Milan, molto nitida. Fronte Milan, sì, nel senso che da tempo ne abbiamo un consorzio che vuole comprare la maggioranza, che aspetta che la proprietà dica di sì. Le linee base di questo accordo ci sono da tempo. Il problema è che la proprietà dell'ultima persona di Berlusconi, diciamo, pone tutta una serie di condizioni. Certo, perdonami, ma io così nitida non la vedo la situazione dall'altra parte di Milano. Non so Tuppardo, non so Luigi Garlando. Nitida negli elementi base della trattativa. Nitida nel fatto che è avvolta nella nebbia. Mi sembra molto chiaro il discorso di Benignazzo, cioè... È nitida nel senso che bisognerà capire se e quando se Berlusconi vuole vendere. Certo. Il discorso dubbio è diciamo legato al fatto che nitida, diciamo, lo dicevo anche in funzione del fatto che sull'Inter, come vi ricorderete, si è partita la maggioranza, poi il 20%, poi questa svolta, insomma, lì non è mai stato in discussione il piano. Il problema è che, appunto, dei tanti nomi che sono circolati non ci sono conferme. Né la Fininvest ne ha ricevuto. Attraverso Galateoto c'è la consapevolezza che comunque si tratta di soggetti solidi finanziariamente, non sarà Suning ma comunque un consorzio che i soldi li ha, che già da un mese era disponibile a mettere sul piatto complessivamente quasi un miliardo, comprese quei soldi che Berlusconi vorrebbe impegnare. Sì, però Marco non si capisce bene chi siano questi e soprattutto soprattutto non si capisce bene se al di là delle dichiarazioni di intenti Gigi Garlando Berlusconi abbia voglia di vendere o no. Sì, è questo, è la sensazione, insomma, abbiamo già vissuto la storia con Mr. B, insomma, di uno tracrettato che è presentato come credibile e poi alla fine, insomma, una dismissione per vari problemi, ma c'è sempre la sensazione di questa fatica a staccarsi dal giocattolo e quindi contro poi, insomma, la volontà del resto della famiglia, quindi una situazione effettivamente... Io assolutamente non nitida, non la vedo così chiara la situazione del Milan, mentre all'Inter è stata fatta la necessaria chiarezza. Se di questa chiarezza io continuo magari per problemi di miopia personale, ma poi a non vederla così tanto, perché ancora, insomma, in interviste di 3 giorni fa c'era la volontà di tenersi la maggioranza, di fare un progetto almeno su 2 anni a condurre la società e portarla tra le prime 10 per fatturato del mondo. Poi c'è un'accelerazione, si sbaglia in un'altra direzione, può essere credibile Suning eccetera eccetera, però io immagino lo sgomento dei tifosi e tutta questa chiarezza con un cambio di rotta così drastico, insomma, fatico a vedere. Pierluigi Pardo, come è la pensi? È abbastanza paradossale in questo momento la situazione, perché da una parte c'è buona parte del mondo rossonero che vuole che Berlusconi venda, poi Berlusconi per romanticismo, per interesse, per tutta una serie di valutazioni di carattere psicologico che non sono ancora, non essendo noi psicologi non possiamo sapere, ma certamente non vuole farlo, perlomeno ha mille dubbi da questo punto di vista. E dall'altra, il paradosso è che tanta gente invece auspicava un ritorno romantico di Moratti e una società di tipo tradizionale all'Inter, e invece in realtà l'Inter è stato oggetto di trading, e quindi insomma sono due cose abbastanza paradossali e opposte le situazioni in questo momento. La verità però è che oggi le società di calcio purtroppo sono oggetto di operazioni di trading, il caso dell'Inter lo dimostra in maniera abbastanza significativa, anche perché insomma la proprietà di Toira è stata una proprietà da questo punto di vista non troppo romantica, no? Portata non lo è stata, anche se è indubbio che Toir dei soldi prestati o non prestati comunque in questa squadra ci abbia messi. Certo. Poi stiamo a vedere, ha messo 70 milioni, diciamo, per comprare l'Inter, è creditore di 120-130 milioni, per il resto, insomma, Marco, quei debito... soldi prestati che fine faranno? Sei un creditore, quindi se li riprende, li rivorrà indietro con un tasso di interesse piuttosto elevato. C'è un accordo, a meno che non decida di fare il benefattore, non credo. E quindi chiaramente tutti quei discorsi che venivano fatti inizialmente, insomma, poi sono rivelati poco veri, poco credibili. Però ecco, io credo che fondamentalmente ora diciamo si sia scelto tra Toire e Moratti anche di gettare la maschera, diciamo, su questo idilio, certo, insomma, che andava avanti da tempo, e ripeto, è stata fondamentale la scelta di Massimo Moratti di voler vendere. Dopodiché, a mio avviso, può soltanto fare il bene dell'Inter avere una, diciamo, situazione in cui Suning arriva ed è proprietaria, sì, e gestisce la società. Sulla sponda rossonera la sensazione fondamentalmente è che Fininvest venderebbe domani mattina, sì, Berlusconi mai, esatto, e quindi lì si tratterebbe un po' di mettersi d'accordo su quali sono, io su qual è l'idea solo, a monte, no Marco? Carlo, sì ricordo solo perché... che le prime avance di Mr. B risalgono ad ottobre 2014. Sì, ce lo ricordiamo. Siamo bene, questa storia maggio... l'abbiamo raccontata in tutti i modi, in tutte le salse, e anche, sì, con dovizia di particolari. Marco, grazie. Grazie a voi, a presto. Marco, grazie. Grazie Marco Berinazzo. Dal Sole 24 Ore io voglio chiedere anche a Luigi Garlando, visto che poi ne parleremo, che effetto ti fa... Cambiando discorso, Thiago Motta con il numero 10. Oggi c'è questa foto di tutti gli azzurri, compreso il presidente federale, in occhiali da sole, in elegante completo blu. Ma guarda, è un simbolo di quest'Italia, perché quest'Italia secondo me va presa un po' come il paniere dell'Istat, e quindi è preziosa anche per leggere un po' lo stato del nostro calcio, quindi minimo storico di milanesi che riflette quindi la crisi del calcio di Milano, minimo storico anche di talenti, e quindi con tutto il rispetto per minimo per storico Thiago anche Motta, di commissari tecnici, questo numero pronto? Minimo mi storico sentite? Anche di commissari tecnici, ho capito, perdonami, minimo storico anche di commissari tecnici, sì, se vuoi forse un po' cattiva, però insomma è comunque uno che sta uscendo e che magari dovrà dividere il tempo e l'attenzione dell'Italia e a fare anche il Chelsea, quindi in questo senso senz'altro un minimo storico. L'ultima volta che siamo andati in Francia a giocarci qualcosa di importante, insomma, ci avevamo Baggio, sì, e ci avevamo Del Piero, e ci avevamo Inzaghi e Vieri, oggi non sappiamo chi ci farà i gol. Quindi da qualsiasi punto la vedi, quest'Italia è un'Italia veramente di transizione. Le nostre mamme hanno fatto spesso dei capolavori, no? Hanno costruito delle generazioni di talenti, si sono presi una generazione di riposo. Sul commissario tecnico non sono d'accordo, perché in che senso, lo dicevamo qualche giorno fa, ma nel senso che noi tante volte abbiamo detto che paese strano che siamo, che non può accettare per colpa della dietrologia l'idea che ci possa essere addirittura il doppio incarico, vi ricordate per esempio Itti, no, io sono favorevolissimo al doppio incarico, dire, in ogni sport. Noi da un certo punto di vista, io vi rivolto il ragionamento, vi ribalto il ragionamento, dovremmo essere onorati in questo momento qui di avere un commissario tecnico che è stato scelto da un grandissimo club come il Chelsea. Cioè, è un paradosso, una provocazione, ma è così, nel senso che comunque sappiamo che il calcio di club è un calcio dominante nei confronti del calcio delle società. Noi oggi abbiamo un allenatore che ci porterà, speriamo, a un buon risultato in Francia, che ha una reputazione talmente alta da essere stato scelto da uno dei più grandi club al mondo, sì, per una grande operazione di rilancio. Quindi è un'ulteriore conferma, se ce ne fosse bisogno, della sua qualità. Pensare che adesso lui Conte non vede sia... valora. Eh? E lui non vedeva l'ora di essere, ragazzi, chiamato, di tornare in pista. Sì, però, questo è il problema. Questo è il problema. Allora, scegli una fidanzata brutta perché nessuno la vuole. Che Conte voglio dire, che fosse un allenatore che sia sempre stato, che sia un allenatore con un grande mercato in questo momento, è un'ulteriore dimostrazione, è una cosa positiva. Cioè, io mi sento, in vista dell'europeo, mi sento più felice di avere un allenatore bravo piuttosto che un allenatore non c'è alcun dubbio, conoscendolo proprio e conoscendo che tutto quello che lo fa lo fa aggredendolo al 100%, anche il mercato del Chelsea lo farà aggredendolo al 100%, e quindi senza condannare nessuno, ma mi è lecito pensare che spenderà delle energie e non spenderà il 100% delle energie per la nazionale italiana, questo è umano. Poi io sono contento anch'io che ci sia Conte, perché con una rosa, come dicevamo prima, priva di talento, l'organizzazione, le motivazioni dovranno supplire, e non c'è nessuno al mondo che possa darle meglio di Conte, però mi tengo quelle riserve sul doppio incarico, che a me non piace. Non ti piace, Gigi? No, in nessuno sport. Quindi ad esempio abbiamo un esempio illustre nella pallacanestro, no? Dove è arrivato Ettore Messina. Può funzionare, non dico che non funziona, a me filosoficamente mi piace avere una causa sola, ecco. Ti piace avere una causa sola, ma per questioni di influenze, procuratori... Che sembra che poi me la tiro troppo, però io ho cambiato incarico e quindi sono diventato da inviato a capo del calcio della Gazzetta. Avrei potuto fare tutte e due le cose e nessuno me lo impediva. Io dico invece voglio riservare l'energia a costruire la squadra, la Gazzetta, a fare un lavoro e non a farle tutte e due. C'è chi lo fa, c'è chi è direttore di una rete, fa anche le telecronache, scelte rispettabilissime. Io preferisco avere una missione sola e il 100% delle energie su quella missione, così è personale. Questo credo che sia anche veramente un fatto di personalità, nel senso che credo che sia anche proprio un fatto di metodo di lavoro, che secondo me ci sono persone che sono più portate per fare tante cose insieme e persone che sono più portate invece vogliono essere più focalizzate. Ma al di là di tutto, io sono d'accordo in principio sul fatto che la nazionale italiana e fare il commissario tecnico della nazionale italiana, che è uno dei lavori più belli del mondo, diciamo, no? Soprattutto per un italiano, per un grande allenatore italiano come Antonio Conte, dovrebbe rappresentare. Però, come hai detto mille volte, Pierluigi, per un allenatore risolto, perché questo aveva troppa voglia di riscaldarsi al fuoco dei club, del lavoro quotidiano, e l'ha detto mille volte, comunque a guadagnare anche un sacco di soldi, parliamoci chiaro. Io ringrazio Luigi Garlando, ciao Gigi, alla prossima, ciao a tutti. Ciao, mi tengo ovviamente per Luigi Pardo, subito dopo la borsa. Tra poco seguiremo tutto, prima però spot per noi. Seguiteci su Twitter, @tutticonvocati. Pioneer Investments, leader globale nella creazione di soluzioni di investimento. Vi presenta. Sono Giovanni Minoli e vi aspetto tutti i giorni dal lunedì a venerdì dalle 9 alle 10 e mezza con l'attualità su Mix 24 e Gialli della Storia, naturalmente su Radio 24. Ascoltaci anche in digital radio. Si ricomincia. Tutti convocati. Ho scelto un po' i calciatori che mi hanno dato maggiori garanzie per la mia idea sotto tanti punti di vista, ecco, anche quello umano. Ringrazio, ripeto, quei ragazzi che non sono qui con noi, perché veramente per me è stato un grande dispiacere sia da un punto di vista umano, calcistico, non portarli, però dovevo fare delle scelte e mi auguro, ecco, che siano state le scelte migliori. Stoppi la palla al volo, come ti ha imparato tanto tempo. Sono tanti anni che sto in nazionale, però questa è stata forse la volta che ho temuto veramente di più di non far parte di questo gruppo, e come la prima volta, che poi la prima esperienza è stata quella del mondiale, la gioia nell'essere parte di questa spedizione è sempre grandissima. Siamo una squadra fortissimi, fatta di gente fantastici, e non potimo perdo, e fa piure merda. Abbiamo sicuramente una grande responsabilità di rappresentare il nostro paese, che storicamente, insomma, per il calcio si scalda e sotto certi aspetti vive anche di calcio. Abbiamo vinto 4 mondiali, un europeo, per cui siamo una nazionale di riferimento. Siamo vittime dell'arbitrarietà. Vedremo un'Italia che cercherà di giocarsela con i propri mezzi, senza avere rimpianti, questo è poco ma sicuro. Dovremmo essere consci di tutto, sia degli aspetti positivi che quelli negativi. Quelli negativi fanno diventare una forza per noi. Siamo una squadra furbissimi. dunque, abbiamo sentito, oltre a Checco, Zalone, Conte, De Rossi, Buffon, di nuovo Conte, adesso sentiamo Corrado e Andrea, ma io voglio chiedere prima a Pierluigi Pardo se lo convince questa nazionale, che al di là del 10, questa suggestione del 10 a Thiago Motta, che molti italiani non gradiscono, come vedo anche dai messaggi, 349-238-6666, ma è solo una questione numerica. E forse Scaramantica, io quel 10 l'avrei visto sulle spalle di Totti, ma questo è un altro film, un'altra storia, un altro discorso. Questa nazionale, nella quale la notizia mi sembra il taglio di Jorginho, no? Sì, sì, la notizia è il taglio di Jorginho, la scelta di un giocatore in più a centrocampo con caratteristiche, diciamo, di inserimento e di lotta, più che di un ragionatore, di un passatore di palloni. Sì. Come Jorginho, e lei, per me, insomma, io non sono neanche troppo convinto del taglio di Bonaventura, perché sapete che a me però insomma era nell'aria, quindi diciamo fa sicuramente delle notizie. Il ballottaggio in realtà non era fra Jorginho e Sturaro dal punto di vista delle caratteristiche, era fra due diversi ruoli, due diversi modi di concepire il centrocampo. Tutto chiama per una squadra certamente più di lotta che di governo, più di attesa e di ripartenza piuttosto che di dominio del gioco, ma questo insomma è in qualche modo specchio dei tempi. Abbiamo una buona difesa, abbiamo una grande difesa, abbiamo un po' di qualità sparsa soprattutto sugli esterni, sì. E il resto lo dovrà fare Conte, una competizione nella quale, come sappiamo bene, poi alla fine passare il turno è abbastanza... mi pare di capire che non ti convince. Dai, ti conosco bene. Io ero molto ottimista, poi è chiaro che... Non ti convince tanto questa... No, tutt'altro. Guarda, io sono sempre ottimista. No. Penso che arriviamo male, perché poi Verratti e Marchisio soprattutto sono due esterni esatto, in un ruolo chiave. Già davanti siamo così. A centrocampo quello che avevamo l'abbiamo perso, quindi è chiaro che siamo messi male. Però credo nello spirito di questa squadra, credo nell'inquadratura che ti potrà dare Conte. Penso che passare il primo turno, anche per motivi statistici, sia abbastanza semplice, e poi lì si deve creare una magia. E poi alla fine queste sono competizioni dove gli episodi contano tanto. Poi quindi... ti faccio anche la nazionale degli esclusi anche in altri paesi, anzi ve la faccio subito. Corrado, buongiorno. Sì, buongiorno, grazie della convocazione. Senta questa, Reina, sì, in porta, Albiol, Terry, Javi Martinez in difesa, Condombia e Pirlo, Bonaventura, Juan Mata, e in attacco Diego Costa, Giovinco, Benzema, io ci metterei anche Francesco Totti. Questi sono quelli che stanno a casa. Sarebbe una buona nazionale. Una buona squadra. Direi da puntare al titolo. Che non sono mettiamo tutte anche, nazione, ci mettiamo anche Götze. Götze, magari, non lo so, ci potrebbe stare anche qualcun altro magari che è a casa adesso, che non è, che non è stato convocato. Niente, io più che da nazionale, che sono moderatamente ottimista, perché io sono interista, quindi non amo Conte e non amo tutto quello che diciamo fa parte, vabbè, della questo per questioni filosofiche, tifo, però, eccetera. Però secondo me sarà una nazionale tosta, che sarà difficile da battere. Faremo fatica che vincere, però non saremo così semplici da buttare fuori. Una nazionale che secondo me può arrivare al massimo ai quarti, poi lì è una questione di fortuna, perché come la Champions, anche diciamo l'Europea è un fatto di fortuna, ci vuole molto torneo fortuna, notturno, certamente, sono i dettagli a volte, però l'altro giorno abbiamo detto con Fulvio Collovati, secondo me è eccessivo, però si diceva obiettivo la semifinale. Pardo, sei d'accordo? Ma non c'è un obiettivo, secondo me. Nel senso che sicuramente noi non siamo tra le prime quattro d'Europa in questo momento. Siamo forse tra le prime otto, forse, non ne sono nemmeno convinto. Però per il tipo di forma, un po' quello che dicevo ieri, cioè è chiaro che se fosse un girone all'italiana, il nostro obiettivo sarebbe l'Europa League. Sarebbe arrivare quinti, sesti, qualcosa del genere, secondo me. E già sarebbe un buon risultato per quello che è il valore nella continuità di un torneo rispetto ad altri paesi. Però siccome invece è una competizione completamente diversa, una competizione che assomiglia molto di più a una roulette emozioni, contano le energie fisiche, conta la magia che si riesce a creare o che non si riesce a creare. Insomma, io non escludo che usciremo al primo turno, ma penso che se passiamo al primo turno poi ce la giochiamo contro tutti, sì, perché sì, poi nella partita secca questa è una squadra che ha dei valori, secondo uh-huh, me, di esperienza dietro, di qualità, di malizia tattica, che possono consentirti di fare prestazione contro tutti. Per cui la semifinale o il quarto di finale, diciamo il quarto di finale, lo diventa una specie di media aritmetica fra il trionfo e il fallimento. Ecco, diciamo che se arriviamo nei quarti non è un europeo da buttare, sicuramente. Se arriviamo fra il primo e l'altro non è un europeo da buttare. Però poi alla fine, nella singola partita, tutto può dipendere da un dettaglio. Questo è evidente, l'abbiamo già imparato in tutte le manifestazioni così, così rapide e brevi che bruciano tutti in fretta. C'è Paolo che scrive: la peggiore Italia di sempre, secondo me Conte rischia l'esonero dal Chelsea prima di iniziare. Questo mi sembra eccessivo. Subito dopo il traffico, giriamo tutti questi interrogativi a Walter Novellino. Tutti convocati. Convocati. Non sono così d'accordo con chi scrive via WhatsApp che nella Juventus Jorginho farebbe la riserva con Sturaro. Trattasi di giocatori e di ruoli profondamente differenti. Walter Novellino, buongiorno. Ciao Walter. Buongiorno a tutti. Ciao. Ha sentito cosa ha detto Pardo prima? Sì, ho sentito. Sei d'accordo con lui oppure no? Non lo so, io credo che l'Italia parte come ai mondiali, lì quando Lippi siamo partiti, tutti scetticismi, tutti siamo scarsi. Aspetta, siamo quali mondiali? Là. Quelli del 2006 o quelli dopo? Quelli del 2006. Ah, ok. Allora, tutti che parlano, che dicono, ma dove va quest'Italia? Io non sono convinto, sono convinto che le scelte sono giuste, sono convinto che questi sono i migliori giocatori che ci sono. Ecco, l'unico dispiacere è che non c'è Buonaventura, ti dico la verità, perché è un giocatore che a me piace, a me, perché è un giocatore che può fare la mezzala. Ma Conte non l'ha mai visto, Walter, però. Conte non l'ha mai visto, cioè non ha mai dato la sensazione di puntare forte su di lui. Sì, sì, ecco perché la sua decisione è stata per lasciarlo a casa. Però è un giocatore che a me piace molto, forse perché... forse l'ho visto un po' più di Conte, a me piace come gioca, anche come gioca, come qualità. Poi è l'unico giocatore di personalità che aveva il Milan. Al di là di questo, credo che le scelte sono giuste. Si parte con un scetticismo troppo, secondo il mio punto di vista, perché d'altronde i giocatori sono questi, noi non cresciamo, non diamo la possibilità ai giovani di esprimersi in un campionato di Serie A, oppure li mandiamo soltanto in Serie B. In Serie B fanno esperienza e poi fanno fatica a giocare in Serie A, perché in Serie A dobbiamo puntare. E cosa puntiamo? Se non facciamoli giocare, a cosa puntiamo? Io credo che sono fiducioso. Sì, Jorginho a casa ti convince? Ma Jorginho è un giocatore che a me piace molto, anche lui a me, ma poi è un giocatore molto particolare, cioè non direi è stato portato Sturaro al posto di Jorginho. Jorginho è un playmaker, è stato uno dei migliori playmaker europei in questa stagione. In questa stagione Sturaro è un altro tipo di giocatore, non c'entra assolutamente niente con lui. È un giocatore, però sono scelte che vanno rispettate, sono scelte che vanno fatte. Io ripeto, Jorginho è un giocatore che ha fatto benissimo con Sarri, prima non aveva fatto bene, devo dirti la verità. No, con Benitez no, non lo vedeva, non lo faceva giocare. Non lo faceva giocare, benissimo con Andrea Mandorlini a Verona. Certo. È un giocatore che a me piace, un giocatore di grande qualità, che ha i tempi di giocate, che ha il corto, il lungo non tanto, più che altro il corto, raccorda molto il centrocampo con l'attacco. Devo dire però, ecco, certe cose Pardo ha ragione, certe no. Però sono fiducioso. Dimmi quelle in cui non ha ragione, così poi lo facciamo rispondere. No, sulla fatica di passare il primo turno, io ho sentito questo perché non ho il primo turno, dobbiamo la fatica la si fa, perché d'altronde abbiamo fatto fatica alla partita amichevole. Vabbè, quello va bene. Non fanno tanto testo. Io non ho detto che non passiamo al primo turno, io ho detto che statisticamente è anche molto facile passarla, perché la formula... Allora non avevo capito. Quello che dico è che è una competizione talmente breve, corta, che alla fine veramente dipende da una serie di episodi. Noi non abbiamo certamente la forza di una squadra che andrà lì a dominare dalla prima all'ultima partita, e quindi dipenderà molto dal tipo di situazione che si riuscirà a creare. L'altro giorno parlavamo di magia, da dove può arrivare la magia in questa squadra? Da un 3-5-2 che farà, la magia secondo me è lì, perché noi siamo bravi a non far giocare e ripartire bene, ma d'altronde non solo noi, ma tutte le squadre. 1-0 per lei, dai, su, 1-0 per lei. Ecco, esatto. 1-0 per lei, va bene. È questa roba qui. È chiaro che il paragone col 2006, che tutti ci auguriamo, se uno fa un paragone tecnico tra quella squadra lì e questa, insomma... Era nettamente superiore quella. È ovvio che per esempio un giocatore fondamentale, importante, che poi non ha dato... Balotelli è un giocatore, secondo il mio punto di vista, da portare, però ha fatto tanto male che giustamente Conte l'ha lasciato a casa, perché Balotelli ha tutte le qualità per essere un giocatore importante. Certo, Walter Mayer è in questo momento improponibile. In questo momento io sono balotelliano, lo sanno ma tutti. Ma io sono d'accordo, è improponibile in questo momento. No, Antonio ha ragione, l'ha lasciato a casa. Vi chiedo invece, Walter e Pierluigi Pardo, fatemi un attacco con questa squadra. Abbiamo parlato di 3-5-2, la composizione offensiva di questa squadra. Pelé Eder per Walter Novellino, Pardo? Per la Insigne. Io Insigne è uno che non lo lascerei mai fuori. A me non piace. In quel ruolo non mi piace. Non ti piace? Secondo me Insigne è più un esterno. Certo. Ho capito, Walter, però è stato il miglior giocatore, l'abbiamo detto molte volte, che il miglior attaccante che per lungo periodo il campionato italiano ha espresso. È sicuramente più adatto, lo dicono anche i numeri e l'esperienza. È più adatto per un 4-3-3, per un 4-2-3-1. È chiaro che non è una seconda punta e una certa idea di adattamento c'è, però insomma, vedete che quale Eder è? Se è l'Eder della prima parte della stagione, è una seconda punta magnifica. Se è l'Eder degli ultimi 4 mesi, allora preferisco adattare Insigne. Che non struscia pallone. Ricordate che noi Eder ha fatto male perché deve costruire il gioco. Dovendo costruire il gioco, è un giocatore che si trova lì già davanti. Noi dobbiamo difendersi e ripartire, ed era un giocatore adatto per questo. Sì, un giocatore che sa attaccare gli spazi. Però se fa bene anche Insigne, va bene anche Insigne, per carità, ci mancherebbe. Insigne che ha avuto anche un po' più di dimestichezza con il gol rispetto a Eder. Sì, nella seconda fase, però... Sì. Nella prima fase Eder ha fatto un gran campionato, certo, con la Sampdoria. Poi è affogato grosso modo nel marasma dell'Inter, ma queste sono altre. E lì c'è un po' di marasma dappertutto. Grazie Walter. Ciao, un saluto a tutti. Allora, abbiamo ancora un paio di minuti per rispondere Pierluigi ad Andrea. Così non lo teniamo lì. Buongiorno Andrea. Buongiorno. Dica. Allora, bravi innanzitutto, grazie per la compagnia e molto tutti convocati 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, sms, whatsapp. Dica. Volevo dire, per quanto riguarda Conte, secondo me una buona accelerata alla scelta di andare via dalla nazionale è sicuramente il comportamento di Allegri alla Juve. Si è calificato subito in finale in Champions. Brucia, quindi quella bruciatura lì sicuramente non l'ha digerita bene, per cui è voluto subito rimettersi in pista. No, io non mi sembra un po' forzata come lettura. Conte sarebbe andato al Chelsea 2 anni fa, Conte sarebbe andato a Manchester United 2 anni fa, e non mi sento neanche di biasimarlo per questo. Conte è stata un'opportunità improvvisa, imprevista, perché è finita in quella maniera così sorprendente in estate, Tavecchio aveva bisogno di un grande allenatore per questi due anni, era in una difficoltà enorme dopo la famosa gaffe. Comunque Conte rappresentava la migliore soluzione su piazza. Conte in quel momento non aveva altre squadre perché era fuori dai giochi e ha preso questa scelta. E dunque è andata così. Due anni fa, sinceramente, se due anni fa Conte avesse avuto il Manchester United, sono sicuro che sarebbe andato al Manchester United. Solo che il Manchester United non l'ha chiamato, e neanche il Chelsea. Perché oggi Mourinho va allo United, Guardiola va al Manchester City, certo. Ancelotti va al Bayern. Cioè i grandissimi allenatori vanno nei club, non vanno nelle nazionali. Questo è un discorso che abbiamo fatto molte volte, sul quale ci troviamo d'accordo e sul quale continueremo a dividerci sulla storia di un doppio incarico che a alcuni piace, a me piace, a molti altri non convince. Sentiamo domani, Pier. Ciao, grazie. Ciao, un abbraccio. Ciao. Ci fermiamo per il GR, ma torniamo subito dopo. 800 24 00 24, il numero verde. E l'arbitro fischia la fine dei tempi regolamentari, si va ai supplementari. La partita si allunga, in molti l'avevano previsto. Tutti convocati. Vorrei un'Europa più compromessa, più sociale e con più senso dell'umorismo. E tu come vorresti l'Europa? Ogni giorno alle 14 alle 21.30 Europa 24 ti aiuta a costruirla, informandoti in tempo reale sulla situazione politica, economica e culturale dell'Unione Europea, per essere davvero cittadini d'Europa. In collaborazione con Euronet Plus. Il segnale orario vi è offerto da... Diversissima e Amissima, la nuova compagnia assicurativa con quasi 100 anni di storia. Tutti convocati. Marchetti, Barzagli, Bonucci, Insigne, Chiellini, De Ciglio, Sirigu, Buffon, Ogbon, Bernardeschi, Candreva, De Rossi, Florenzi ed Er, Zazza, Pelle, Darmian, Parola in Sharawi, Immobile, Sturaro, Thiago Motta e Giaccherini, Conte chiamò, sì! Non male, Fiorello che canta su una musica che ben conosciamo, tutti convocati di questa nazionale. Domenico, buongiorno. Ciao, buongiorno. Ciao. Allora, fammi fare due considerazioni. In musica, o in parola? No, in parola. Musica niente, eh? Allora, no, in musica no, a musica ti potrei andare solo mia, napoletana. Come ti pare? Va bene, la musica napoletana. Se vuoi cantarmi la considerazione in musica, a me va benissimo. Ti ringrazio molto. Senta, ti volevo dire, la prima considerazione è che secondo me io sono juventino e il Milan, il Cavaliere sta prendendo in giro un po' tutti, io non ci credo. Come l'anno scorso ci sono le cordate il fatto che non ha nessuna voglia di vendere, no, ma questo è un dubbio che mi porto dietro anch'io, Domenico. No, vedrai che sarà così, lui cerca di stare ancora a cavallo e tira a campare. Sai come si dice, chi vivrà vedrà. Io penso che sono uno juventino e mi dispiace, questa è la mia opinione, io a Conte a me non mi è mai piaciuto, neanche quando era nella Juve, e lui non è coerente con se stesso. L'altra volta, ti ricordi, alla convocazione della nazionale non hanno fatto andare Chiellini, poi adesso lui pretende gli stagi e quella roba lì, vabbè che se ne va, lo stanno criticando tutti, se ne va. Cioè, gli hanno permesso di dargli 4,5 milioni gli davano, quel povero Prandelli l'hanno messo in croce. Per me quello lì ha fatto sportellate per arrivare dove è arrivato e basta. Beh, io la vedo così. Ha fatto sportellate e ha vinto dei titoli. Se vogliamo essere onesti, Domenico, poi l'antipatia fa parte del gioco, eccetera, però se vogliamo essere onesti ha anche fatto delle grandi cose, perché questa Juventus, che io continuo a ripetere Allegri ha migliorato, è stata creata da Antonio Conte, quindi non bisogna neanche essere ingenerosi da questo punto di vista. Quello che io dico è che Conte, a me non è piaciuto in tutta questa avventura di Conte, meraviglioso allenatore, CT perfetto, grande scelta da parte del presidente federale in un momento in cui c'era disperato bisogno di credibilità, Quello che a me non è piaciuto è questa, questa mal sopportazione del ruolo, al di là degli stage di giocatori chiamati e poi rifiutati. Non mi è piaciuta questa, questa tendenza ad essere così, ad accettare un ruolo che mal sopportava. E infatti è andato alla prima occasione in un grande club a prendere un sacco di soldi, a fare il lavoro che preferisce. Rocco, buongiorno. Buongiorno. Niente, io grazie di essere stato convocato. Grazie a lei. Io, siccome che sento sempre la difesa è fortissima, la difesa è così, però una buona difesa ci vuole un buon centrocampo. Perché si parla sempre della difesa forte, però se non c'è un centrocampo buono, io sono un interista. Siccome che nell'Inter abbiamo visto che il primo mese non si è capito niente, che non prendevano gol, dopo il centrocampo non ne manteneva più, abbiamo preso gol e si è visto la fine, sì, che abbiamo fatto. Sì, sì, no, è questione di equilibri. Lei ha ragione. È in dubbio anche il fatto che la difesa, che è quella della Juventus, è il meglio disponibile sul mercato della nazionale italiana. Quindi se c'è un punto in cui possiamo davvero essere forti o essere tranquilli è quello della difesa. Poi è chiaro che la difesa andrà protetta dal centrocampo, ma mi sembra anche che le soluzioni scelte da Conte siano orientate in questa direzione, cioè in un centrocampo di protezione della difesa. Basta leggere i nomi dei convocati. Luigi, buongiorno. Sì, buongiorno, ho parlato di rispondere alla vostra convocazione, e un po' meno onorato delle convocazioni di Conte invece. Perché? In particolare mi soffermo anch'io sul centrocampo, perché credo che sia evidente per me, come tanti altri che ho ascoltato, il fatto che aver escluso un giocatore come Jorginho, che ritengo l'unico tra quelli, voglio dire, opzionabili, in grado di dare visione di gioco, sì, al centrocampo, grande qualità nei passaggi, e le statistiche, non lo dico io, lo dicono le statistiche a livello europeo, vanno a confermare questo dato. E aggiungo una cosa, anche interdizione, perché con Sarri ha imparato molto a ricoprire, insomma, fa un gran lavoro, a volte magari non visibilissimo, ma aiuta molto rispetto a Jorginho ha fatto una stagione meravigliosa, e credo che numeri o non numeri, eccetera, che possono sempre aiutare, ma non sono tutto nella vita, stiano a dimostrarlo. Insomma, Jorginho ha fatto una stagione meravigliosa. Evidentemente Conte non aveva bisogno di un playmaker, non aveva bisogno di un Bicio Verratti. Le vere assenze pesantissime sono quelle di Verratti e di Marchisio, che non ci possono essere causa infortunio. Poi Conte ha, proprio per il ragionamento anche che faceva l'ascoltatore precedente, probabilmente per dare maggiore protezione ad una difesa che comunque è forte, ha scelto di non portarsi il playmaker. Scelta discutibile, anch'io Jorginho l'avrei portato, però né Jorginho né Bonaventura sono mai stati in cima ai pensieri del commissario tecnico, questo l'abbiamo capito. Ciao Nicola Roggero da Sky, da Fox, ciao. Buongiorno a tutti voi. No, volevo leggerti una formazione, posso? Sì, ma come no? L'ho già letta prima, lo rifaccio. Reina, Albiol, Terry, Javi Martinez, Pirlo, Condombia, Bonaventura, Juan Mata, io ci metto anche Totti, ma comunque se non vogliamo mettere Totti, Diego Costa, Benzema e Giovinco. Quelli che all'europeo non ci andranno, che se li guarderanno in televisione. Ma sai, è una cosa che si fa spesso per gioco, prendendo tutti quelli che o perché appartengono a nazionali che non partecipano. In questo caso è abbastanza difficile, a parte l'Olanda che è riuscito a fare un miracolo, perché tale è un miracolo riuscire a non qualificarsi nelle prime 24 europee. Io avrei scelto l'europeo all'Olanda, perché secondo me non era facile riuscire a fare questa impresa, sia pure il contrario. Sì. È, dicevo, ci siamo spesso divertiti a fare il conto di quelli che non c'erano. Regolarmente in queste formazioni c'era Ryan Giggs, che era gallese e certo, di conseguenza non giocava i mondiali europei. Questo non per, non per esclusione da parte di un commissario tecnico, queste sono esclusioni. No, si era escluso lui quando decise che lui era gallese come la mamma e non inglese come il papà, che aveva lasciato la famiglia, quindi lui per vendicarsi del padre disse che era gallese come la madre, e chi ci rimise ovviamente fu l'Inghilterra, che un'ala del genere non l'ha mai più trovata. E quindi insomma è divertente fare queste formazioni. C'era spesso anche Shevchenko, che come ucraino è arrivato a giocare i mondiali solo nel 2006, probabilmente già in parabola discendente. Quindi sì, una cosa divertente, perché ovviamente tanti protagonisti, però non tutti saranno in Francia. Sì, nemmeno Götze, tra l'altro, comunque è un altro degli esclusi eccellenti. C'è chi dice che l'Inghilterra potrebbe essere la vera sorpresa di questo europeo. Io credo di no, nel senso che l'Inghilterra potrebbe fare meglio rispetto agli ultimi mondiali, e fin lì ci vuole poco, perché gli basterà vincere una partita e faranno già meglio. Rispetto al passato, l'Inghilterra ha trovato per esempio un portiere, Hart, e sicuramente questo è il grande rammarico per esempio di Fabio Capello, che se avesse avuto un portiere, non dico forte, ma anche solo normale, probabilmente avrebbe visto la sua squadra andare molto più avanti in Sudafrica. E poi ha un reparto offensivo strepitoso, tanto che alla fine Hodgson, per non scegliere, si è portato di fatto 5 attaccanti, perché non poteva essere escluso ovviamente Kane, non poteva essere escluso Vardy, non poteva essere escluso Sturridge, che era in grande crescita nelle ultime settimane, e non poteva essere escluso il ragazzino Rashford, certo, e non poteva essere escluso Rooney, quindi li ha portati tutti e 5. Il problema dell'Inghilterra, a mio parere, è nei centrali difensivi. Loro hanno Cahill, Stones, Smalling, ma insomma nessuno di loro nessuno di loro è un Enesta top. O è Baresi, certo. E il problema, a mio parere, in parte sta anche a centrocampo, dove alla fine ci ha rimesso Drinkwater, che sarebbe stato esaltante sentire un inglese che si chiama Bevi l'acqua, è meraviglioso. Lui ha deciso di portare Hodgson, ha portato Wilshere, che quest'anno non ha di fatto mai giocato, e Henderson, che aveva saltato gli ultimi due mesi di stagione per un infortunio. Però anche lì ha del bel materiale, per esempio Barkley è un giocatore che con l'Everton ha sempre fatto vedere grandi potenzialità, anche se poi non totalmente espresse. Però l'Inghilterra non è messa male, ripeto, se non ci fosse questo problema dei due centrali difensivi, direi che può fare della strada. Io continuo a vedere una squadra, diciamo così, da quarti di finale. Proprio ben che vada, l'Inghilterra potrebbe fare capolino in semifinale, ma non andrei oltre, ecco. Sì, Nicola, si è parlato tutta la stagione di Vardy, che è stato il deus ex machina offensivo del miracolo dell'Ester. Spesso stiamo a parlare di scarsa esperienza internazionale dei giocatori, facciamo la conta dei nostri attaccanti e vediamo come nessuno di questi abbia grande esperienza internazionale. Vardy può essere un protagonista di questo europeo, magari cavalcando la magia della stagione dell'Ester? Vardy ha un grande vantaggio, è un ragazzo che evidentemente non sente la pressione, uno che fino a 25 anni giocava tra i dilettanti, una storia abbastanza nota, non si fidava a lasciare il suo impiego perché non sapeva se avrebbe fatto strada. Come Zaza, che non sente la pressione, infatti io lo farei giocare tutta la vita. È uno che ha scalato abbastanza rapidamente poi il calcio inglese, è arrivato all'improvviso in Premier, dalla Premier è arrivato all'improvviso ad essere protagonista e quasi non se ne è accorto, ecco perché dico che non sente la pressione. Se continua a non sentirla, magari non si accorge che sta indossando la maglia dell'Inghilterra all'europeo e fa sfracelli. Certo, non è di collocazione tattica facile, perché ovviamente l'Inghilterra non può rinunciare a Harry Kane come prima punta. Lui dovrebbe giocare o come seconda punta, come più facilmente penso, sulla fascia, in un 4-2-3-1. Lo vedo pochino, perché fino a 2 anni fa lui giocava lì, è stato Ranieri a inventarsi come prima punta, ecco perché infatti ha fatto sfracelli quest'anno. C'è un problema tattico un po' con Kane, però è un giocatore straordinario, un giocatore che per esempio non sente la fatica, una preparazione atletica fantastica, tanti gol realizzati tra il 75esimo e il 90esimo proprio sfruttando la sua straordinaria resistenza alla velocità, lui più con velocista un mezzo fondista, per cui potrebbe essere la sorpresa. Ecco, se dovesse Vardy continuare a giocare come con l'Ester, allora chissà che veramente mi faccia rimangiare le mie parole e l'Inghilterra sia veramente la sorpresa del torneo. Sappiamo perfettamente come questi tornei notturni vivano sulla scintilla di un briciolo di magia che nell'Italia non vedo poi granché, però nell'Inghilterra Vardy può essere davvero il Totò Schillaci di questo europeo, no? Può essere quello che porta all'Inghilterra quel pizzico di magia che le manca. Per chiudere sulla nazionale italiana, l'esclusione di Jorginho, stiamo parlando anche dell'esclusione di Bonaventura, due giocatori comunque di talento, due giocatori che però Conte non ha mai visto bene fino in fondo, cioè non ha mai dato l'impressione di credere in questi giocatori. Sì, mi sembra, le polemiche sulle scelte degli allenatori sono oramai storiche. Questo è evidente. Anche perché riuscire a mettere tutti d'accordo su questa tutti è storia, i 23, sì. No, è impossibile. Impossibile. Però si tratta soltanto di un discorso tattico, non si tratta di fare delle polemiche, perché sono due giocatori che comunque in un centrocampo muscolare come quello che abbiamo avrebbero rappresentato, stante le assenze di Marchisio e di Verratti, avrebbero rappresentato forse la scintilla, certamente nel caso di Jorginho la capacità di fare playmaker. Sì, ma dicevi bene prima, probabilmente Conte aveva evidentemente la sua idea in testa, che non contemplava già in partenza questi due giocatori e ha continuato a non contemplarli anche dopo gli infortuni di Marchisio e di Verratti. Sull'Italia pare il discorso opposto all'Inghilterra. L'Inghilterra dal punto di vista offensivo non si discute, sì. Mentre l'Italia non si discute dal punto di vista difensivo, perché di fatto ha trapiantato in nazionale la difesa della Juventus. Certo. C'è chi dice però che quella difesa ha bisogno di protezione da parte del centrocampo. Sì, è vero, però non è una cosa da poco. Io credo che nel calcio, specialmente in un torneo come l'Europeo Mondiale, vada applicato il famoso detto che c'è nel football americano: l'attacco fa vendere i biglietti, la difesa va a vincere le partite. Io continuo a pensarla così, quindi tutti quelli che pensano che l'Italia comunque sia tagliata fuori dalla possibilità di fare molta strada, si ricordino che intanto una squadra che non prende gol o ne prende molto pochi, anche se poi non ne segna tantissimi, alla fine rischia di andare avanti. Io dovendo prendere tra Italia e Inghilterra, paradossalmente continuo a prendere l'Italia, proprio perché l'Italia ha delle garanzie in difesa che l'Inghilterra non ha. E poi insomma i gol si possono trovare, si possono fare, si possono inventare, insomma affrontare l'Italia non è mai facile, quindi giusti ovviamente tutti i ragionamenti di quelli che lamentano queste due mancate convocazioni di Bonaventura e Jorginho, però credo che l'assetto dell'Italia non dipenda da queste due mancate convocazioni, ma dipenda dal rendimento della difesa. Ecco, se la difesa dell'Italia regge, io mi aspetto che l'Italia possa anche fare della strada, non so quanta, ma della strada, sì. Non c'è dubbio. Nicola, un'ultima cosa, sempre per quanto riguarda l'Inghilterra, ma quel meraviglioso giocatore di Wayne Rooney, dove è finito? Beh, Wayne Rooney io l'ho visto molto bene sia nella finale di Coppa d'Inghilterra, dove ha dimostrato di essere veramente un capitano, perché si è preso la squadra sulle spalle nel momento in cui Carisma non si discute, è andato sotto. A mio parere è un giocatore che sta riflettendo sul finale della sua carriera, che potrebbe essere impostato alla Bobby Charlton, rimanendo con un paragone del Manchester United, cioè un giocatore che gioca dietro le punte, quindi un giocatore quasi in funzione di non dico di trequartista, però insomma nella zona di centrocampo, in appoggio proprio del sì. Reparto avanzato, e credo che lì potrebbe ancora ritagliarsi dei bellissimi anni. Sono contento che Oxon l'abbia non solo convocato, ma l'abbia protetto, e l'abbia protetto anche nel momento in cui sono esplosi tanti altri attaccanti, certo. Perché a mio parere Rooney questo europeo potrebbe fare molto molto bene, e siccome non azzecco mai un pronostico, ragazzi, scommettete su Rooney che non c'è il torneo. Grazie Nicola, sempre un piacere. Grazie a voi. Sempre un piacere parlare con Nicola Roggero. Cipriano, buongiorno. Sì, buongiorno. Mi dica. Buongiorno a voi, grazie buongiorno. Per avermi convocato. Grazie a lei, convocatissimo, come tutti, 800 24 0024, tutti i giorni, tutte estate, europei e olimpiadi comprese. Dica. Sì, ho sentito un attimo gli argomenti che avete parlato. Io più che altro da juventino, diciamo, in questa nazionale, quando si parla di questa nazionale, e mi confronto sempre, diciamo, con il mister Conte, ecco, come punto di riferimento. Sì. Diciamo che per me Conte è un professionista capace, perché lo ha dimostrato, diciamo, dappertutto dove è stato. Dappertutto dove è stato, però per me ha un limite. Cioè, quale? Quello di non essere contento. Cioè, potrebbe... Beh, il fatto di non essere contento, detto, ti stimola a fare sempre meglio, sempre di più. Non essere contento in che senso? Cioè, nel senso del non essere contento del ruolo che occupa, l'ha già cambiato ormai l'allenatore del Chelsea. Non è mai stato contento di fare il commissario tecnico, questo l'ha espresso più volte. Non gli è stato consentito di fare il lavoro che voleva, ma d'altra parte nessun commissario tecnico può avere la squadra per tutto il tempo che Conte avrebbe chiesto, quindi non è mai contento, può essere anche un pregio, può essere anche un pregio. Io credo che sarà al 110% delle sue funzionalità e capacità in questa spedizione europea. Mario Buoni, buongiorno. Buongiorno Carlo, buongiorno. Come stai? Hai imparato il cinese? Il cinese lo parlo mai fluentemente. Lo parli fluentemente. Sei pronto per entrare in società all'Inter? Eh? Ma sai, ormai è cambiato. I tempi romantici del presidente tifoso sono cambiati. Si va verso il professionismo più esasperante, esasperato e forse anche meno romantico, però il mondo però è questo. Va bene così, no? Cioè, se arriva, da tifoso interista, se arrivano i mandarini con il grano, tu non, proprio schifo non ti fa, no? Esatto, come diceva Mao, non è importante che il gatto sia bianco o nero, l'importante è che prenda i topi. Quindi, quindi questo è. Da noi tifosi interisti siamo contenti se c'è una grande rivoluzione che porti beneficio per chi veste la maglia nero-azzurra. Sì, comandante Mourinho però intanto è andato dove c'è il grano. In un'altra casa, esattamente, dove è andato Conte, dove c'è il grano, dove è andato Guardiola, dove sono andati tutti questi allenatori. Sono curioso vedere cosa farà Conte in Inghilterra, in una squadra che deve vincere non solo il titolo ma anche centrare le coppe. Adesso non so se il Chelsea farà le coppe l'anno prossimo, perché con la Juventus ha avuto qualche difficoltà in realtà al riguardo, no? Qualche problemino ce l'ha avuto, sì. E quindi questa è la mia curiosità. Senti Mario, prima parlavi di gatti e topi, chi prende il topolino tricolore del basket? Milano, favorito netto, anche se gioca peggio, è Milano. Milano gioca una squadra molto fisica, quindi quando Milano difende mette in grande difficoltà Reggio Emilia, che gioca un basket molto divertente, molto bello, e oltretutto agli italiani che giocano e stanno facendo molto bene, quindi la differenza è quella, la tecnica di Reggio Emilia contro la fisicità di Milano. Che l'altro giorno, parlando con Jerry De Rosa, si diceva, a parte il fatto che questo pronostico l'ho azzeccato e ci sono le prove sonore, Milano-Reggio Emilia è stata la finale da me pronosticata, al di là di tutto quanto, a me piace molto di più Reggio Emilia come squadra che non Milano. L'altro giorno ne parlavamo con Jerry De Rosa, non hai tratti della squadra Milano. No, sono d'accordo con te, la mia premessa è proprio quella. A livello di gioco Reggio Emilia è divertente, bella, gira molto bene il pallone, ha delle soluzioni, è molto difficile da marcare perché spesso riesce a giocare un quattro uomini fuori dalla linea dei tre punti. E Milano invece è diversa, è una squadra molto più fisica, molto più uno contro uno, però la c'è in difesa Milano, quando mette molto fisico, come di solito fa quando nel dramma è in momenti difficili, è difficile batterle perché ha tutti uomini che riescono a tenere bene i cambi. Il basket moderno è quasi sempre un cambio sistematico. Sì, Mario, un'ultima cosa, invece, questo pronostico l'avevano azzeccato Belinelli, Datome, Gallinari, tutti quelli che abbiamo sentito in questi giorni ai microfoni, tutte le superstar italiane, la finale NBA sarà Warriors, incredibile, sì. Incredibile. Dopo essere risorta praticamente dal baratro contro Cleveland, e tutti quanti hanno pronosticato questa finale e hanno pronosticato un vincitore che è LeBron James e Cleveland. Beh, io tifo per LeBron James e Cleveland, mi ha stupito OKC. Mi ha stupito Westbrook, che sta prendendo la scia di quell'altro grande giocatore perdente che è Carmelo Anthony. Bravo, e quindi di questo mi dispiace, perché è un giocatore che quando arriva un momento che conta fallisce, ma non fallisce a livello di punti o di assist, che ha delle cifre straordinarie. Sbaglia sempre quello che sono le giocate determinanti, palle perse, eccetera, eccetera. Certo, è così. E anche Durant, forse Durant gli un po' meglio, è un ruolo diverso, però Carlo. Sì, un po' meglio, ma... rischia di diventare uno dei più grandi perdenti della storia, ma l'abbiamo raccontato mille volte di Michael Jordan prima che poi cominciasse a vincere dei titoli. Sarebbe ora, sulle qualità di Kevin Durant nessuno può discutere. Mario, prestissimo, ti aspetto qui, okay. Quando passi a Milano. Ciao, volentieri. Ciao a voi tutti, ciao. Ciao Mario Boni, e noi ci fermiamo qui. Io ringrazio Federico Binda in redazione, Gianmarco Ferronato in regia. Ci sentiamo domani alle 2, ciao ragazzi. Saluti!